Un castello di pixel nel cielo grigio, muri di dati, un labirinto in un abisso, porte chiuse, serrature d'acciaio, mi perdo nel codice, un sogno che svanisce. Ma ho le chiavi, sono il re del castello, un password manager mi dà il controllo, ogni porta si apre, ogni segreto è mio, nel mondo digitale io sono il dio. Scale infinite si arrampicano al buio, codici segreti scritti su ogni muro, una giungla di numeri che urla silenziosa, cerco la libertà tra mura misteriosa. Ma ho le chiavi, sono il re del castello, un password manager mi dà il controllo, ogni porta si apre, ogni segreto è mio, nel mondo digitale io sono il dio. Non c'è più paura, non c'è più confine, ogni porta che apre un trionfo che brilla a fine. Sono un cavaliere nel cyberspazio eterno, un'armatura di login in questo inferno moderno. Ho le chiavi, sono il re del castello, un password manager mi dà il controllo, ogni porta si apre, ogni segreto è mio, nel mondo digitale sono il dio. Non c'è più paura, non c'è più confine, ogni porta che apre un trionfo che brilla a fine. Sono un cavaliere nel cyberspazio eterno, un'armatura di login in questo inferno moderno. Ho le chiavi, sono il re.